13. A&A. Poi, all'uscita, succede una cosa veramente incredibile. Andrea aspetta Alexandra, va vicino a lei e la guarda negli occhi. Ho saputo tutto, sei veramente coraggiosa. Grazie, dice Alexandra. La prossima volta ti aiuterò io. Grazie, però mi difendo anche da sola. Lo so. I due ragazzi ridono. Hai degli occhi bellissimi, dice Andrea. I tuoi occhi azzurri mi piacciono molto. Grazie. Ci vediamo domani. Sì, sei molto gentile, grazie. Non dirmi sempre grazie. Va bene, grazie. Alexandra e Andrea ridono di nuovo. Tieni, dice Andrea. Il ragazzo dà un biglietto ad Alexandra, poi sorride e va via. Andrea ha un sorriso così bello. Alexandra guarda il biglietto. C'è un grande cuore rosso con la scritta A&A. E questo è l'inizio di un'altra storia.